via la T, che arriva l'antenna all'apparato e poi dall'altra uscita del T ti colleghi con un altro PL, uno spezzone di cavo, un reciprocito specifico, e lo fai a un quarto d'onda della frequenza del centro banda, lo fai un po' più lungo e poi te lo cari, devi andare con lo svattimetro, poi se facessi parte dell'antenna e va cortocircuitato alla fine. Ci metti un cortocircuito o un coso da 50 ohm, molte volte va bene anche con il cortocircuito, così ce l'hai anche a massa e ti elimini eventualmente cariche elettrostatiche e fa da filtro a notch quello lì, e lo si usa per i ponti radio, cioè è un, diciamo una soluzione che si usava nei ponti radio quando non c'era altro, per eliminare tutti i disturbi ai lati, e ti fa da filtro a noce e funziona veramente bene. E catalogiamolo questo. Se è una pesiglia a mettere un T e cosa la gente a fare questa cosa qui, va bene. Sì, sapete, l'unica cosa che secondo il cavo che usi per fare il filtro notch risulta molto stretto come filtro, però se lo faccio troppo alla ce la dovresti fare a farti di canale, capito? Tutti i 40 ce la dovresti fare se c'è un problema. Già va bene. Ah, questo qua visto che già va, già sta andando. Non pensavo di riuscirci, invece è andata, meglio così, va. No, ma io guarda, per sto usando l'altro, io uso in stazione, che l'uso come giulli, l'FT450 però della Yaesu. E va benissimo, va, è quello che uso solitamente, abbinato sempre a un MC60. È simile a, diciamo, come grandezza un po' più piccolo del 440, è tra 440 e 140, però è bello perché c'ha un doppio filtro, c'ha rotto il filter inserito, veramente pulito, poi c'ha l'accordatore retrocontenuto ed è un bel apparato, è brutto da vedersi perché non è tanto bello, però una volta che ci fai l'occhio già va, e poi c'ha un bel display ampio, grande, e va bene. Io ho visto il 16 di trasmissione, un bel apparato, no, non è Mario. Poi ho avuto, allora fa, ma ti parlo degli anni 80, gli FT250 era una bomba, non pigliava né QRM né culti, ma con un banco vocale a fianco. Figurati che io vicino a casa mia c'avevo a 50 metri una ragazza che parlava a baracchino, io a lei non lo sentivo per niente, ma lei a me sì, roba di culti davo. Tutti ci prendiamo la parola con lei, sto bello sua. Allora attaccavo ho dovuto attaccare quello di ricezione e l'altro apparecchio di trasmissione, perché se no non riuscivamo a durare, capito? Quello dice che era apparecchio bellissimo, se riesco a trovarlo un altro con FT250 me lo prendo e me lo pianto qua, sono a valvole, ma l'unica rottura di palle che dovevi fare la taratura in trasmissione, ogni volta che l'accendevi dovevi tarare per poter uscire bene. Poi per il resto il ricettore era un demonio, quando sono fatti bene sì. No, io l'apparato, diciamo, quello che più grande che ho come in HF è il coso, il Mark 5, quello da 200 watt, diciamo, il suo alimentatore, quello sì, c'ho anche il filtro Collins inserito per l'SCB, ma è micidiale. Io ho fatto le prove un po' con tutti gli apparati e non ce n'è, è il migliore, poi c'ha 200 watt in trasmissione, perciò va alla grande, ma in ricezione quando inserisco gli abilito il Collins, ha una pulizia allucinante ed è un filtro meccanico, c'ha anche i filtri digitali, li uso abbinati, però basta solamente il filtro Collins e ripulisce tutto, molte volte in 80 piuttosto che in 40, che quando c'è molto casino, molto QRM, gli inserisco quello lì e sento una pulizia allucinante, perché tra virgolette è l'unico apparato che ha questa prerogativa, perché ho il 7400 che ha i filtri digitali che si possono regolare, cadette, tutto quanto, però non si avvicina mai a Mach 5, no, non ce n'è. Simile c'ho il Lenice 7000, che il veicolare è quello con il monitor a colori, che c'è il resettore di spettro incorporato, si avvicina un pochettino, ma non più di tanto, perché c'ha il doppio filtro ugualmente digitale, anche lì si può regolare tutto quanto, però visto che c'è un bel DSP, allora riesce a ripulire, perché se no gli altri, per esempio c'è il DS2000 che c'ha il DSP incorporato, ma non serve a niente. Più volte l'ho provato a usare, a regolare, a fare, non serve assolutamente a niente, ti fa la voce robotica e basta, però non riesce a ripulire, però è comodo perché fa tutto, fa gribanda e fa tutto qua, capito? Appagappa, va bene, quelle apparecchie sono belli, se sono certi buoni, certi belli, diciamo così così, ma io già mi sono provato bene con questo qua, me l'ho 15 anni e finora non mi ha mai dato problemi. L'ho pulito solo qualche volta la ventola e basta, come fa, e gli ho messo il veloce bimbi dentro, non avevo piazzato altro. Poi da quando ce l'ho, da quando avevo comprato la Claudia, non ho mai fatto niente. Grazie a tutti i finali, se c'è qualche problema si scendono subito in basso a zero, poi la basta lasciando la fredda si riprende subito. A volte mi è capitato che si bloccava la ventola perché c'era la pari sporcizia, ho visto che scendo di basso a zero e poi dopo un po' di parte. Quindi già hai fatto bene come apparecchio. Vecchio ma un bombo. Ho capito, gliel'ho portato una volta e c'era bruciato il VCO e non commutava. Gliel'avevo sistemato, no, un bel apparato quello lì, già va bene, già va. Ah, io, guarda, era, ripeto, gli volevo far fare un diverso tipo di utilizzo, poi alla fine, riparato del tutto, tanto in ogni caso già c'ho altri apparati per fare monitor, non c'è problema. Praticamente uso l'OTE 17, che è quello in QRP, quadribanda, che ti fa dalle HF fino alle UHF, lo uso con un tappo da 50 ohm in cortocircuito, perciò massima attenuazione, e lo uso come ricevitore per fare monitor, per non sfondarmi il ricevitore, il front-end, se non si satura, poi si sfonda tutto quanto. Vabbè, dai, che vado a mangiare, che le lasagne sono sul tavolo, che roba buona oggi. Ci sentiamo magari dopo pranzo, divertiti, se ci sei ci sentiamo dopo. Un salutone a tutti quanti, quelli che mi ascolto. Massimiliano Chimere, auguro buon pranzo a tutti. Ciao, buon pranzo. Ehi, ciao Massimiliano, buon pranzo, buon tutto, ci sentiamo dopo, non c'è problema.